A bordo campo di Dario Ricci. Qualcuno probabilmente ha preso sotto gamba il tentativo di Filippo Simeoni. Ancora un leggero margine di vantaggio. Filippo Simeoni ancora davanti. Si volta e una volata alle spalle di Filippo Simeoni. Stanno recuperando, ma vince Simeoni. Secondo arriva Visconti e terzo Pozzato. Era il 30 giugno del 2008, a Bergamo Filippo Simeoni conquistava il titolo di campione d'Italia di ciclismo, un alloro che coronava una carriera in cui Simeoni si era trovato a confrontarsi sui pedali ma anche fuori dalle gare con il re del ciclismo moderno, quel Lance Armstrong, la cui carriera è stata cancellata in questi giorni a causa del coinvolgimento nella rete di doping smascherata dall'agenzia antidoping statunitense. Ebbene, Simeoni conquistava nel 2008 la maglia di campione d'Italia. Nel 2009 però, nel Giro d'Italia del centenario che vide proprio Armstrong tra i protagonisti, Simeoni non venne accettato, la sua squadra, la Flaminia, non venne accettata come squadra in gara. Difficile dire il perché. Certo è che nel 2003 lo stesso Simeoni aveva denunciato il suo ricorso al doping e aveva anche accusato Lance Armstrong e il suo medico, quel Michele Ferrari, che è indicato da più parti come il deus ex machina del ciclismo in provetta. E allora, in questa puntata di A Bordo Campo, che dedichiamo proprio alla parabola di Lance Armstrong, siamo andati a contattare Filippo Simeoni per sapere cosa ha provato di fronte agli ultimi sviluppi della vicenda Armstrong, come vede il presente e il futuro del ciclismo dopo la caduta di Re Lance. Ma penso che sia un atto dovuto, un passaggio che bisognava fare per ridare credibilità al ciclismo, perché purtroppo l'era Armstrong è stata un dramma, perché purtroppo dal dossier che è uscito fuori dall'USADA le prove sono inconfutabili. In quegli anni in molti sapevano come andavano le cose, però purtroppo chi ha gestito il ciclismo non è riuscito a curare questo male. L'episodio del Tour de France del 2004 penso che sia stato inequivocabile, è stato un episodio brutto che doveva essere punito in maniera forte dall'Unione Ciclistica Internazionale, però purtroppo evidentemente stava bene così, perché Lance Armstrong era intoccabile, e adesso, anche se a distanza di anni, credo che siamo di fronte a un evento storico, un evento molto importante che penso servirà per ridare impulso al ciclismo, cercando di farlo ripartire con più credibilità. Vale la pena ricordare che tu hai pagato in prima persona in due occasioni di fatto i tuoi errori, perché nel 2003 confessasti di aver comprato sostanze dopanti da Michele Ferrari, quello che era il tuo medico e il medico al centro dell'inchiesta padovana, e che è il medico che ha seguito anche Lance Armstrong. E come ricordavi, poi nel 2004 Lance ti riacciuffò durante una tappa del Tour de France in cui tu eri andato in fuga, quasi a volerti punire per quella testimonianza, no? E tra l'altro hai pagato poi successivamente, permettimi di dirlo, quando venisti escluso, pur campione d'Italia, dal Giro d'Italia che per la prima volta andava ad accogliere Armstrong. Quello sì che sembrò uno sgarro bello e buono, no? Sì, purtroppo sono stati degli episodi brutti che mi hanno condizionato in maniera negativa la mia carriera sportiva. Il primo è quello di aver fatto il dovere di cittadino onesto, che davanti a un giudice mi sono assunto le mie responsabilità, ho detto semplicemente la verità di come andavano i fatti in quegli anni. Il Tour de France del 2004 è stato veramente umiliante, è un gesto inqualificabile che, come ripeto, l'UCI doveva intervenire in maniera decisa, cosa che non è stata fatta. E poi non dimentichiamoci, insomma, la cosa più brutta è stata l'esclusione dal Giro d'Italia con la maglia di campione italiana, che penso quello è stato l'episodio che mi ha fatto abbandonare il ciclismo con un certo dolore, mi ha fatto un po' disinnamorare del ciclismo, perché me ne sono uscito molto umiliato e ho fatto cercando di fare di tutto per mettere in evidenza questa cosa, anche riconsegnando la maglia tricolore per stimolare le coscienze delle persone che credevano nei valori nazionali, però purtroppo non è servito a niente, e niente, quindi sono rimasto fuori dal Giro d'Italia, un evento importante, impensabile per qualsiasi paese. Ecco, a distanza di anni fa più male quell'esclusione forse che quella tappa maledetta e drammatica del Tour de France. Sì, sicuramente, perché per me era fondamentale, era importantissimo per me, perché finivo la carriera in maniera eccellente, insomma, con la partecipazione alla Giro d'Italia, con la maglia tricolore, la mia squadra, la Salamina Bossini, che è una squadra laziale, una squadra di giovani, che il Giro del Centenario con l'arrivo a Roma era qualcosa di veramente importante, ci tenevano e io ci tenevo con loro, e poi per tutti gli appassionati di ciclismo e dei valori nazionali, quindi è stata veramente una grossa umiliazione, solo perché purtroppo al giro veniva Armstrong e a me è stato impedito di partecipare al giro. È un'accusa di fatto anche agli organizzatori del Giro d'Italia. A questo punto io mi auguro che ci siano tutti gli elementi per andare fino in fondo. Rimani sorpreso che molti ex compagni di Armstrong abbiano parlato solo ora, e una volta terminata la carriera dell'americano, si percepisce anche molta ipocrisia in questo, perché nessuno l'ha fatto prima, così come invece tu lo facesti quando Armstrong era ancora il campionissimo. Ma sai, queste sono cose che a distanza di tanto tempo uno potrebbe pensare chissà che cosa, però la realtà è che su Armstrong sono diversi anni che stanno indagando, però purtroppo non erano mai riusciti a trovare delle prove inconfutabili, quindi per accusare un personaggio di questo calibro bisogna avere delle prove certe, quindi dietro un grande lavoro dell'USADA, ma anche della magistratura italiana, della procura di Padova, dei Nassi di Firenze, penso che abbiano fatto un lavoro eccellente a livello internazionale, c'è stata una grande cooperazione, quindi è uscito fuori un po' di tutto. Una volta che hanno trovato elementi indiscutibili, come si poteva negare l'evidenza? E quindi alla fine ben venga, anche se a distanza di tempo, però credo che siamo di fronte a un momento storico importante per i giovani, perché devono capire, insomma, che è inutile barare, è inutile fare imbrogli, che poi alla fine prima o poi la verità viene a galla. Sei stato uno dei testimoni consultati dall'USADA, no? Per la realizzazione di questa inchiesta, di questo dossier, e so che in questi anni hai denunciato le pressioni, le minacce che ti sono arrivate da Armstrong e dal suo entourage. Ora, hai paura? No, ho paura. Ma quando sei una persona aperta, schietta, sincera, non bisogna aver paura, perché alla fine io ho semplicemente detto sempre la verità, non devo nascondere niente. Purtroppo mi sono scontrato in un ambiente che c'era tanta omertà, tanta ipocrisia, fino a quando, insomma, il fenomeno Armstrong stava bene a tutti, è andato alla grande, e dopo adesso tutti che lo scaricano, tutti che gli danno addosso, però la realtà si sapeva già da anni che purtroppo c'erano dei grossi dubbi sul suo entourage e sulla persona. Quindi ecco, Filippo, ti chiedo, queste prove sono schiaccianti, inequivocabili, quindi credo che si è perso, diciamo, se avessero agito già 10 anni fa al Tour del 2004, le cose sarebbero già cambiate da tempo. Secondo te quindi anche gli organizzatori delle grandi corse cui Lenz partecipava sapevano? Ma io penso che l'ambiente che sapeva tante cose, e quindi c'erano gli elementi per scoprire questi meccanismi, e non è stato dovuto fare, quindi credo che c'è una complicità un po' da tutte le parti. Io credo che tutti si dovrebbero fare un esame di coscienza se per quello che è successo. Ti chiedo conferma di quanto dicevamo prima, è vero che in questi anni, anche recentemente, hai subito ancora pressioni e minacce dall'entourage dell'americano? Ma io più che altro ho subito un grosso danno a livello sportivo, a livello economico, perché alla fine la mia carriera è stata penalizzata in maniera importante. Mi sono dovuto ridimensionare, ho corso solo alla fine perché avevo un carattere forte che non volevo mollare, quindi sono riuscito ad andare avanti con anche l'appoggio di persone che mi hanno voluto bene, stimato nel mio ambiente. Insomma, poi sono io, il mio riscatto personale l'ho avuto con la ceramica Flaminia, che mi ha, a fine carriera mi ha dato quello stimolo in più per riprovarci, e con la vittoria del campione italiano io mi sono ripreso la mia rivincita morale personale, quindi credo che alla fine a me queste cose personalmente a me cambiano poco, perché io già sapevo le cose come andavano, quindi però sicuramente per l'opinione pubblica, per il mondo intero, credo, e per i giovani, credo che sia importante capire il grande inganno che c'è stato in questi anni, insomma. Qual è il momento della deposizione che hai fatto all'USADA a Travis Tygaard, il suo numero uno, che non dimenticherai mai in questa vicenda? Ma io, guarda, a distanza di tanti anni ho solo ripetuto l'episodio, quindi da me l'USADA hanno capito che il fenomeno Armstrong non era chiuso solo nella sua figura, ma in tutto l'entourage, tutto quello che girava intorno a lui, quindi li ho visti molto determinati ad andare fino in fondo per cercare di scovare non soltanto il personaggio Armstrong, che alla fine uno ha fatto qualcosa di grandioso con la sconfitta del male, il ritorno alle corse, la creazione della fondazione, e queste cose rimangono e rimarranno sempre. Però per far capire quello che c'era intorno al fenomeno e che ha permesso tutto ciò, e quindi credo che delle cose dovranno ancora uscire, mi auguro che serva per fare pulizia totale, e con la speranza, insomma, di far ripartire il ciclismo senza più ombre del passato, ma con più pulizia, più credibilità, perché è uno sport che poi fondamentalmente ha dei grandi valori e ha una grande potenzialità, ha molti appassionati, molti praticanti, quindi a livello di messaggio promozionale è veramente grandioso. Filippo Simeoni, grazie per essere stato nostro ospite qui a Radio 24. Grazie a voi. Ora una breve pausa, poi ancora insieme qui a bordo campo per parlare ancora del caso Armstrong.